Buonasera. Buonasera, signor Natalino, ben alzato, che ve chiede. Tutto sotto controllo, guarda te. Che pagava. Sì, tu che pagava, Natalino. E allora? E allora, mi stavo facendo delle commissioni, così domani sera mi rendo libero, che ve chiede. Potrei fare di scrivere la macchina, ma domani va tutto pioggia, quindi non posso fare nulla. Penso andare da domani, è un casino. Dopodomani, se fa bello, me li faccio, Natalino. Capo, aspetta un attimo. Che vabbè, cosa cacchio. Cara, ha detto che volevo fare i dischi, ma domani ha dato Eva, non posso farvi nulla, capito? Quindi li farò dopo domani mattina, presto, vado e mi riposo, anche se non è un casino, Natalino, cosa fai? A posto Eva, non se ne capisce più nulla di questo tempo, prima ha dato bello e invece a lei non era potuto dorra Eva, ma dimmi il bucato, una cosa incredibile. E infatti adesso che faceva bello, le faceva girando a che cosa? È che è arrivata una nuova perturbazione e quindi ha rovinato un po' tutto, dai. E infatti. Oh Isanca! Evidentemente però il tradimento del suo sposo, dell'amica vicina. Allora ragazza, sono giunti con l'autospurgo. È entrato un camion dell'autospurgo nel piccolo mio. Ma perché? Cosa è successo? Hanno pulito tutti i tombini. Le vacine sono associati per un fumare che devi va. E la protezione civile ha mandato a pulire tutti i tombini della città. E proprio questi non sono alla fine del. Perché ha dato tempo brutto di nuovo, oh, domani proprio è, vai. Domani mattina, forse la domani sera comincia un po' a migliorare. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma se non se ne comprende più nulla di questo tempo. È un casino, eh. È tutto un cavagaba. Vabbè dai, io devo fare roba al computer, ci sentiamo più tardi se ci sei, e se no alle prossime, dai. Ehi, va bene, dai, finisco alcune cosette qua, ci hai ascoltato dopo, magari si entri. Ok, ciao Natalia, a dopo. Ciao, ciao. avanti. Avanti con la musica, e avanti. Danni, meglio, ho pensato che fosse il tuo, ma non ero sicuro. Stavo ascoltando un paio di canzoni. E allora, come va? Stavo cercando di svegliare un po' la frequenza. Non so che tu fai così, che metti musica, ti faccio pagare la SIAE qualche giorno. Voi? Che cosa vedi? Mi può dire la SIAE? Nulla. Scherzo. E allora giù, tutto bene? Sì, tutto bene. E mi ero in attesa, come ti stavo dicendo, per cercare di svegliare un po' la frequenza, ma qui si dorme continuamente. E cosa vuoi fare? Io accendo, se c'è gente, se no qui spengo e faccio altro. Io lo sai che ho la passione del canto, quindi vado a cantare e non ne ho problemi. Ma a me mi piacerebbe fare un po' e un po', capito? E beh, certo che sì, infatti, e beh, d'altronde, se non si può stare qua, allora è chiaro che un altro ubi ce l'hai e lo fai e lo usi quell'ubi che hai. Certo che sì. E anch'io faccio così, salgo, ascolto, stamattina c'era qualcuno così, ma non più di tanto, io Franco, eravamo Franco California, poi c'era Natalino e poi chi è entrato? Ah, è Eugenio da Porto Torres, abbiamo parlato una mezz'oretta, ma poi abbiamo chiuso anche perché eravamo vicino all'ora di pranzo, per cui abbiamo dovuto chiudere. Capito già. No, vabbè, ma almeno tanto qualcuno c'è la mattina, perché fino all'altro giorno ho messo l'antenna, sono sceso 5 minuti, poi erano quasi tutti andati, sono sceso 5 minuti per mettere il gas. Ok, no, è appunto quella mattina, ma io ti avevo chiamato di nuovo, ho pensato, ma forse Gianni è già arrivato a destinazione, ed è sceso dalla macchina, è sceso e ha chiuso, invece tu mi stai dicendo che ti sei fermato per mettere il gas. Sì, e vabbè, poi sono rimasto da solo, e cosa facevo? Ad ascoltarmi il QRM, ho chiuso anch'io, non è che potevo starmene qua, quindi aspettando che cosa? Ragione, dai. Ma succede sempre così, succede. Io tante volte la mattina salgo, anche 3-4 volte in una mattinata, salgo, accendo, ascolto, faccio anche un giro di canali fino al 40, per vedere se c'è qualcuno magari spostato su qualche altro canale, invece niente, e allora spengo e basta, e faccio qualche chiamata e basta, ma se non nessuno risponde, chiudo e non se ne parla più. Sì, ma infatti, se non c'è più la volontà di entrare, prima c'erano fisse quelle persone che entravano, almeno sapevi che c'erano loro e entravi tranquillamente. Infatti, quindi era diverso, non è come adesso, ormai ci siamo, diciamo, un po' stancati un po' tutti, ma io che ho tanto tempo, che tra l'altro qua sono dalla poltrona al divano, dal divano alla sedia dove c'è il computer, e dal computer magari mi attacco qua al baracchino, e se in qualche maniera cerco di passare il tempo, non sto uscendo, esco raramente, per cui non cosa vuoi che ti dica. E dunque il tempo cerco di passare in qualche maniera, mi accendo il computer e ascolto l'SDR, ascolto Roma 4 e ci sono delle persone lì sull'SDR a 27.395 soprattutto, ma l'altra mattina mi hanno fatto anche schifo perché c'era una serie di parolacce a questi deficienti romani che c'erano, che non te ne dico, infatti ho dovuto chiudere perché mi stavano facendo anche schifo, mi stavano facendo. No, io lì non ascolto mai, io ascolto qua, come dice Vittore, dove si parla camminetti eccetera, per vedere se c'è gente, e niente, ascolto così, se c'è gente, se sente gente, bene, se no spengo e via. C'ho il VU che praticamente non lo sto più usando, io di tanto già lo uso, sento Antonello, guarda caso quando qualche volta mi sta in mente di accenderlo, schiaccio, chiamo e mi risponde Antonello, lui c'è, di tanto in tanto c'è lui, sì, beh, me l'hanno chiesto, gliel'ho dato, non mi interessava più. Tanto era inutile ripararlo ancora una volta, perché mi si era agguantato in tutto 4 volte. 3 volte l'ho riparato, ma 4 volte non ho voluto più riparare, e allora me l'hanno chiesto e l'ho venduto così, guardo com'era. E mi è rimasto solo il microfono, quello non gliel'ho dato, il microfono ce l'ho sempre. Sì, quello. Non lo usi, come ce l'ha apparito, che apparito lo puoi usare questo? Vabbè, con niente, perché ce l'ho conservato. Scusa la tosse. Ce l'ho conservato e basta, Gianni. No, nuovo veramente. L'ho conservato e basta, niente di più. Cioè, in un certo senso, so che non lo uso, ma allo stesso tempo mi dispiace anche darlo, perché non si sa mai, un domani posso comprare di nuovo uno di quegli apparecchi lì e ce l'ho, ho pronto il microfono, capito? Infatti. Dico, sicuramente sei guardato perché non lo stavi usando quell'apparecchio, lo hai tenuto molto conservato e quindi ne ha risentito, perché gli apparecchi fanno sempre e ne risentono, c'è poco da fare. Ma il discorso era anche questo, Gianni, era un apparecchio di oltre 35 anni di vita e io l'ho sfruttato di tutta questa mattina, stavo parlando con Franco, perché io l'avevo preso da Franco, l'avevo preso da California, era mai 12 anni fa, una cosa del genere, per cui già l'ho usato, non è che non l'ho usato, e in quest'ultimo anno poi mi ero anche stancato, anche perché avevo preso questo veicolare nuovo così, e allora sto usando sempre quello perché mi va benissimo, 2 watt di potenza lo uso sempre così, anzi a dire il vero, mettendo i 2 watt metro addirittura mi segna 1,5 watt. E ho visto che anche stamattina Porto Torre mi sentiva bene, Santiago 5-6 e Eugenio, e per cui mi sono basato su quello e l'altro lo avevo abbandonato. E tu per Porto Torre sei anche favorevole, no? Quindi è normale che arrivi bene lo stesso, io lo grido. Ma non ti credere, perché per Porto Torre, da qui dove sono io, perché devi tenere presente che io sono sempre in basso rispetto all'altitudine di Sassari, io sono a 130 metri sopra il livello del mare, a differenza di Sassari che è a 225, e infatti da Sassari verso Porto Torre mi superano, come mi superano anche da Ottava verso Sassari, perché ripeto sono in basso rispetto anche a Ottava, sempre quello, però mi va bene lo stesso, mi sento, intanto per il numero di persone che sono rimaste va bene così, non è inutile stare lì a spendere soldi per niente, quindi ho di più, se mi dovesse servire qualcosa da comprare non ne spendo soldi, perché mi basta quello che ho. Roberto, mi va bene così. Chi è che chiama Roberto? Guarda. Mia Gianni, mi. Dopo tanto tempo. Ciao Gianni, ciao Giulio, che non so chi c'è, sente che ho salutato. Ciao, siamo solo io e Giulio, non so se ti siamo ascoltati. Ciao Tony. E la modalità mi accendono per nessuno con la voce, ma la sera va bene. Se troppo gente mi fermo, l'altro giorno mi sono fermato su 12 in FM, che c'era Porto Torres e Franco di Sorto, e mi sono fermato lì e mi ha fatto la chiacchierata lì, però se non sento gente io non ne vado. C'hai la giornata, un bel Gianni. Ma io fino adesso stavo parlando sul 23 con Gio Maria e Torre, poi prima c'era solo Gio Maria, e poi è entrato Torre, poi è stato un altro po' e poi niente, ho chiuso. Ciao Tony, ben ascoltato. Infatti stavamo parlando di quello con Gianni, accendi, non c'è nessuno, non è che me ne posso stare. Io in un'intera giornata, ad esempio la mattina anche 3-4 volte, accendo, non c'è nessuno e spengo, non sono lì. La sera lo stesso, adesso stasera ho messo un po' di musica per cercare di svegliare la frequenza e appunto ho svegliato Gianni praticamente. Forse se non avessi messo la musica nemmeno Gianni sarebbe entrato perché non avrebbe sentito nessuno, ne sono più che convinto. Perché succede così, Tony? Ma lui non entra quasi mai, perché a volte lo chiamavo io al telefono per entrare, l'altro lo chiamavo al telefono ma qua ha risposto, lui c'ha sempre le cuffie ci può ragazzare, hai capito, ormai da 27 lui non interessa più. Non è vero, assolutamente, se io sento gente entro, io posso fare l'uno e l'altro, se sento gente mi fa piacere entrare, perché io la passione ce l'ho sempre, non è quello che non mi interessa, ce l'ho già da tanti anni e mai mi passerà la passione. Ma io ho fatto entrare anche un altro amico con 27, un vecchio CB che non entra più da anni, e boh, stavo cercando a te per far vedere come ti arrivava, nulla, nulla, Gianni, nulla, niente, ti chiama il telefono e neanche mi rispondi, e vabbè, e pazienza. E magari la sera non potevo, non è che io possa sempre essere a disposizione, se non posso, ho visto facendo il bagno, come faccio a risponderti? È normale, ho visto facendo la doccia, e che ne so. Poi se sono al telefono, se sto cantando sono col telefono in cuffia, se tu mi chiami io sento, quindi se avessi sentito ti avrei risposto. Ok, vabbè, più di una volta ho provato comunque, e capito sempre quando ti chiama che stai facendo la doccia, che sei sotto la doccia e poi canti, scende la doccia, bla bla bla, vero Giulio? Va bene, quello sì, può capitare che uno si trova anche sotto la doccia, perché no? Certo, però il discorso è questo, Tony, è inutile stare lì a stare delle ore davanti al baracchino se poi non entra nessuno. Ripeto, come stavo dicendo a Gianni poc'anzi, io tempo ne ho tanto, tu lo sai, io sono in pensione, dunque esco poco e la mattina sto dalla poltrona al divano, dal divano alla poltrona, poi magari mi stanco di guardare il tablet e mi accendo il computer, oppure vengo e accendo il baracchino per vedere se c'è qualcuno, e cerco di passare la giornata così in qualche modo, magari poi mi stanco del tutto, esco, mi faccio due passi anche qui in zona, tanto per muovere le gambe e passare il tempo, e d'altronde è così, ma una volta c'era più movimento ed era anche più bello, c'era anche più disordine in frequenza, però era più bello perché c'erano tante persone e potevi parlare con tante persone tante ore anche volendo starci al baracchino. Invece adesso cosa fai? Adesso io ho l'autonomia ristretta, perché una volta che comincio a sentire gracchiare la gola devo chiudere per forza, perché sennò mi manca la voce, per cui anche quel problema, vabbè, comunque la vecchiaia è carogna. Vai Gianni. Ma hai fatto della voce, succede anche a me, la mattina mi alzo sempre col mal di gola, giù, sempre col mal di gola, sembra che siamo le finestre aperte, tutto chiuso, eppure con coperto e tutto, mi ho messo anche la sciarpa l'altra volta, perché mi viene sempre il mal di gola. Guarda già, io per dire, sul comodino, la notte ho le caramelle del menta, la mattina mi sveglio presto, mi sveglio e la prima cosa che faccio, bucio la caramellina di menta proprio per cercare di chiarirmi la voce, perché sono proprio messo male a gola, per cui non è che posso stare molto tranquillo. E poi di tanto in tanto mi devo fare l'aerosol, perché addirittura ho il fischietto nel respiro, cosa vuol dire? Ripeto, la vecchiaia è carogna, però andiamo avanti, visto considerato che ancora, grazie a Dio, possiamo camminare con le nostre gambe, e allora devi andare a sperare. Avanti, Tony. Che cazzo. Vabbè, la vecchiaia è per tutti piano piano. Anche io sono in pensione, già nella stessa ferma in attesa, quindi siamo lì tutti e tre. Ok, c'è di tempo, già ne abbiamo. Vabbè, io ho molte più cose da fare entro poco, perché ripeto, le cose mie sono molto molto molto importanti, perché ho incasso, perché faccio delle cose che a me mi pagano per queste cose qua, non voglio dire le cose mie che faccio comunque. E niente, sono impegnato, anche domani sera sono impegnato, quindi mi chiamano e sacchere, si fa quel che si può comunque, per passare anche la giornata e per incassare, arrotondare con la pensione, dai, quello è l'importante. E poi siamo in attesa sempre che mi paghi l'assicurazione, spero entro di Natale ce le dà questi soldi, dai, tutti i soldi che mi danno compro qualcosa di bello, quindi non dico cosa, per dove palle quadrate. E fai bene, quello se non c'è altra cosa più bella di che faccio una bella cena e tirare avanti alla grande, certo. L'altro giorno stavo spostando la poltrona a casa, è un po' pesantuccia, vabbè, ma la stavo spostando con le gambe così, perché avevo le mani impegnate, avevo, e non l'ho fatto la sorta di ginocchio, e meno male già mi sta passando adesso, però ho sentito un crack proprio come quando una cosa, un boh, tanto per darti un'idea, Tony, il presente ce l'ha quando uno fa scoccare le dita della mano, ad esempio, che lo fa appositamente, eccetera, no? Proprio ho sentito un rumore così, ho sentito nel ginocchio, e infatti sono già una settimana che, soprattutto la notte, quando sono a letto, come mi giro, mi fa male la gamba, magari dopo quando mi alzo non sento niente durante il giorno, però se rimango seduto un po' di tempo, quando mi alzo sento un leggero dolore, però faccio due passi e mi si sveglia di nuovo e sono tranquillo, però sembra che stia passando il dolore, dai, speriamo bene, che domani è facciato il menisco. Babbo, avanti Gianni. Probabilmente tu hai fatto un movimento che il ginocchio non deve fare, il ginocchio va avanti indietro, se tu lo fai andare di lato è normale che ti puoi russare anche. Già, è quello che ti dica, io non lo so come sono andato, nel senso che stavo girando la poltrona, stavo girando, e siccome io nella sala ho il pavimento in diagonale, no, con le mattonelle in diagonale, e ci sono le fughe, evidentemente il piede della poltrona si è puntato in una delle fughe e ho spinto troppo e ho forzato il ginocchio, ho capito, perché stavo stringendo proprio con la gamba, stavo stringendo, ma comunque speriamo bene, dai, avanti Tonino. Gianni, c'è un bel cupo sul microfono che stai usando. Lo so, perché questo qua è l'MC60, ha quest'altro lavativo qua. Ma è dentro un barattolo, grazie. Basta, già, però allontanati un po', magari forse che schiarisca un pochino, però già si capisce bene lo stesso, non c'è problema, vabbè, abituati noi a sentirsi bene, chiaro, bello, squillante come sei sempre stato. Cui va bene adesso, è per quello che magari possiamo farti una piccola osservazione, tra virgolette, perché non è che uno può fare osservazione a nessuno, ognuno ha modo come le pare, le piace, ma per dire, no, evidentemente già, ho sempre un po' vicino al microfono, stavo allontanando, anch'io quando lo utilizzavo, usavo tutta la distanza del braccio, usavo già, e con un volume a uno solamente, un massimo 1.5, l'attacca, perché se mettevo anche a 2 già incominciavo ad essere un pochino messo male come radio. Avanti Tony. Grazie al microfono, che io mi devo spostare, che mi hanno chiamato al telefono e ho fatto un attimo il stand-by lì, adesso faccio stand-by qua e vado al telefono. Ok, proseguo, proseguate, dai, proseguite, c'è Gianni, che tu Gianni, Giulio vi ascolto, che sennò se qua poi mi chiudo il telefono, cioè questa qua è una femminuccia e non posso mollare. Continuate, ciao. Succede meglio. Adesso è leggermente meglio. Ero troppo vicino, allora va. Ero troppo vicino, avanti giù. Vai. Non fate aspettare al sesso debole che è sempre interessante la studia. Vero Gianni? Certamente che sì. No, dipende sempre da chi è. Sempre la bonanza mia, ho fatto anche un selfie stasera. Ed è proprio belluccia. È meglio così, dai Tony, è meglio così. Ho detto, non fate fuggire l'occasione, che alle volte sono occasioni importanti da tenere in considerazione. Va bene, dai. Riprendi se puoi, se no le prendi tu già. Vabbè. Basta uscire, no, adesso che qua te ne butto. Se non esci, che stai in casa, è normale. Vabbè, su internet si trovano, ma lascia perdere. Sono tutte acide quelle di internet, perché sono tutte separate, sono prevenute. No, quelli sono da scattare già, quelli sono da scattare, sono pericolose. Sono proprio venuta perché ero bisticciato col marito, pensano che tutti siano uguali e capito. E vabbè. Io già residuo, se non vanno bene residuo subito. Eh beh, certo che sì, ma è così che devi fare, cosa stai lì a tentennare più di tanto? No, non è il caso, guarda, no. Ormai il legame poi già hai fatto una grande esperienza per tantissimi anni, vabbè, quello era diverso il discorso perché era una questione di vita familiare, ma quando si tratta di un'avventura, allora no, allora bisogna stare sul chi va. Dopo quella ho avuto un'altra esperienza di convivenza di 3 anni, anche dopo il matrimonio ho avuto la convivenza, non è che hai avuto altre 3 pure. Si sta tentando uno se ne procura, certo che è così, ma vuole vedere che cosa deve fare. D'altronde, essendo libero così, come il vento, allora uno va a ricerca della preda ed è giusto che sia così. Ancora sei giovane, per cui fai bene già. Ti riferisci a quella che c'era qui dalle mie parti, che abitava o lavorava dalle mie parti, non proprio dalle mie parti, ma dall'altra parte, dai, sempre in questa zona però. Esatto, quella era la mia convivente, quella ho vissuto con me per 3 anni. Appunto, sì che anche quello l'hai dato i 6 giorni, gli hai dato il licenziamento. Sì, quando la cosa non va bene, è meglio che ognuno per la sua strada. Sì, ce l'ho mandata, per carità. Va bene. Ok, va bene così già. Già sei grande, già sai decidere per te nel migliore dei modi, per cui no, non c'è problema. Ci mancherebbe altro. Vorrei vedere che a quell'età ancora hai delle indecisioni in merito. No, non credo assolutamente. Hai una certa esperienza, grazie a Dio, hai avuto la famiglia per tanti anni, hai sempre una famiglia perché anche se hai una separazione, però ci sono i figli e poi c'è anche la ex che è sempre uno fa parte sempre della famiglia, perché sono sicuro che vai d'accordo e non credo che tu hai il carattere di esserti separato e di aver chiuso definitivamente il contatto, eccetera. Non credo proprio, guarda, ne sono più che convinto, anche perché so che tu sei una persona in grado e capace anche di perdonare sempre. Guarda, io con la mia ex moglie anche domani devo uscire, ti immagini? Io ogni tanto esco insieme, siamo rimasti amici, capito? E così è bello già, e ci mancherebbe altro, capita. Non è detto che si debba interrompere tutto, anche il rapporto di amicizia, eccetera, no. Però è bello continuare così, soprattutto per l'armonia dei figli, eccetera. Questo è molto importante, dai. Soprattutto anche nelle ricorrenze come ad esempio Pasqua, Natale, è anche bello riunirsi nonostante che ci sia una divisione, diciamo, familiare, nel senso che ci si è separato, ma in certe ricorrenze è meglio riunirsi tutto, visto considerato che il rapporto è rimasto buono. Ma noi lo facciamo sempre, anche l'anno scorso, anche a Pasqua è venuta qua, non c'è nessun problema, è sempre venuta. Io non ho problemi, perché poi il problema è questo, che se vengono qua i figli la mamma rimane da sola e quindi per non lasciare da sola è normale che la fai venire qua. Certo che sì, vorrei vedere, no, ma poi se c'è rimasta con l'amicizia, anche se magari non c'è più quell'amore, quella passione di una volta, però c'è rimasta l'amicizia e l'amicizia deve essere sacrosanta, ci mancherebbe altro. Suppongo che lei non si è legata a nessuno, è rimasta così libera come il vento. Lui lo sa, io non interferisco nelle sue cose, però diciamo che l'amicizia nostra è rimasta, perché se no non ci saremmo trovati, lì se c'è un problema una cosa, la prima persona che telefona è a me. Certo che sì, no, ma voglio dire, no, adesso... una persona del riguardo, ma magari poteva essere anche una confidenza fatta da lei che ti ha fatto a te, sotto lì, intendevo quello, non credo proprio, so benissimo che tu non ti mischi nelle sue faccende personali nella maniera più assoluta, ma stando in amicizia alle volte si parla, no? Ma certe cose magari non si dicono, capito, perché sanno che magari all'altro parla male e si evitano certe cose. A me pure non interessa più di tanto, perché anche io le mie storie le ho avute, quindi anche se lei ha una persona, ben venga. L'interessante è che c'è una brava persona che tratta in modo il mio figlio. Beh certo che sì, ma è così infatti. Del passato e che avete vissuto serenamente con amore insieme, questo no, va bene, dai, no, non c'è problema. Ma sta scherzando, se ti arrivi di fidanzamento 25 di matrimonio, non ti dico altro. 25, insomma, è una bella data, io addirittura ho superato il 51 e questo è il prossimo, sarà il 52, ho già dato l'idea. Va bene che io ho 20 anni più di te, grosso modo, ma per dire, no? Sì, io sommando con il fidanzamento sono 32 anni e mezzo che ci sono insieme. E per quello allora io dovrei considerare 55 più o meno. Capita, io mi sono conosciuto con mia moglie attuale che aveva lì appena 14 anni, tanto per dire una, e da allora siamo sempre stati insieme, sempre, e grazie a Dio continuiamo a stare insieme di comune accordo e con amore, non c'è problema. E quello si tratta di fortuna, ma siete di vecchio stampo, è normale che sia così, anche mio padre e mia madre vanno attaccati, se usciva uno usciva l'altro, se non usciva uno non usciva l'altro, mia madre aspettava mio padre alla finestra quando tornava al lavoro, mi faceva trovare l'asciugamano pulito, la minestra dentro al piatto per raffreddare, lo accoglieva alla porta, erano tutte cose che adesso non si vedono più giù. No, assolutamente, già, adesso no, adesso per carità, oggi già lo sai come sono, soprattutto i giovani di oggi, ma magari rimangono un po' di anni insieme, quando arriva il momento di sposarsi, si sposano, dopo 15 giorni sono già separati, cose dell'altro mondo, là. Perché questo? Perché questo qui è mancanza di rispetto, no? No, io non lo posso giudicare in altro modo, questo atteggiamento, per me è mancanza di rispetto, per cui vedi bene che non è come altri tempi quando mi sono sposato io o se sei sposato tu, che gli anni passano tranquillamente, dici eccetera eccetera. Ho un'amica che dopo 6 mesi si sono separati, lui doveva dare la specialistica al continente perché si era laureato, doveva dare la specialistica al continente. Lui ha avuto l'incidente nel mentre che lui era fuori, praticamente l'infermiere dell'ospedale, perché l'ha ricoverato all'ospedale, lui ha detto che non c'era nessuno che gli stava vicino, questo infermiere le faceva tutti i complimenti, le coccole, questo e quell'altro, si è innamorato e questo infermiere l'ha mollato, 6 mesi sposato. Purtroppo succedono anche queste cose, cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Ognuno di noi ha avuto la sua storia di una vita intera, perlomeno io me la considero una vita intera, dopo oltre 55 anni, fatti conto, aveva lì 14 anni, ne ha 72 adesso, tanto per darti un'idea, fate un po' il conto quanti anni siamo insieme oggi, non lo so io, quasi 60 anni, 58 mi sembra. Allora era così, si metteva giovane e cose. Sì, mia madre e mia madre, anche quando erano con i quattro erano sotto per mano, sempre per mano, li vedevi, facevano anche tenerezza. Sì, ma ci credo, perché prima si usava così, si usava, oggi invece no, oggi, oh, per carità, oggi tu li vedi, io tante volte ho notato certe coppie così, giovani, andando per strada, discorrendo e bisticciandosi, ma quando mai, ma non è possibile che si possa vivere in quel modo, grazie. Oppure seguo tante volte con la trasmissione di Maria De Filippi, che per me la seguo tante volte, la seguo perché la accendono qua e naturalmente essendo anch'io qua non posso vederla con la trasmissione, ma mi fanno anche ridere questi giovani, stanno lì per cercare di incontrarsi e di mettersi insieme e stanno già bisticciando in televisione. Ma quando mai bisticciano adesso che ancora non si conoscono quasi per niente? Figuriamoci allora quando avranno preso tutta quella confidenza da marito e moglie o da fidanzati. Per carità, è una vergogna veramente, guarda. Oggi, la gioventù di oggi, io avevo tantissima fiducia nei giovani già. Devo essere, mi sono ricreduto, io ho perso completamente la fiducia, ma sotto tutti i punti di vista, vogliamo. Sta andando a rotoli il mondo, c'è poco da fare giù. Stanno tutto a rotoli. Hanno un modo di pensare, non hanno più sentimenti, non hanno più valori, non hanno più nulla. Fanno le cose così baffate, fatti rassarli come ci sa salire. Infatti non hanno più sentimenti, non hanno più valori, come hai detto tu, è vero, ma soprattutto non hanno educazione, non si rispettano l'uno con l'altro, no, non è possibile, guarda, non è possibile. Ma dico io, come si fa a stare con una persona così e bisticciare continuamente? Ma è assurdo, è veramente assurdo che si possa condurre una vita sempre bisticando, no, non è possibile, guarda. Ma poi non va d'accordo, meglio che si lasci, no? Non va bene. Bisticciare non va bene perché poi ti porta le mani, ti porta altre cose, magari perdi la pazienza, sai, e può succedere. E io a quelle cose lì non ci sono mai voluto arrivare, perché per il carattere che ho, il rispetto per il prossimo, se si vede che non si va d'accordo è meglio mollarsi che stare a fare altre cose. Certo, infatti la gente deve essere così intelligente, intelligentemente, quando uno non va più d'accordo, o perlomeno che c'è qualche contraddizione tra i caratteri, eccetera, e allora c'è a trovare, separarsi, perché tu non puoi vivere una vita litigando in famiglia, a casa, ma vogliamo scherzare. Ma dai, io la verità, a casa, io sono più grande di una famiglia di sette figli, devo dire che queste cose non le ho mai conosciute fra mio padre e mia madre, che hanno vissuto insieme 60 anni e oltre. Per dirti, no, non riesco dunque a concepire come mai, forse sarà perché i ragazzi di oggi vengono educati proprio con quel sistema di vita che conducono oggi certi genitori giovani, man mano che crescono anche loro assimilano lo stesso atteggiamento, non lo so, ma prima non era così, Gianni, prima ci si rispettava, ci si voleva bene fino alla morte. Magari l'insegnamento glielo danno anche i genitori, solo che ci frequentano altri ragazzi che magari si comportano male, loro li seguono, capito? E quello è, che dipende sempre dalle compagnie che hai anche. Tu mi direi, tu non c'hai cervello, certe cose non le fa, però quando si trova in mezzo alla mischia, se lo mettono in mezzo e manco se ne accorge. Sì, magari ci sono anche quelle persone deboli che a secondo delle compagnie che frequentano, diciamo che entrano in un circuito poco adatto ad una vita serena. È vero, ma io la verità, anche in quello sono stato abbastanza, secondo il mio modo di vedere, abbastanza prudente, perché quando ero giovane che andavo anch'io insieme agli amici, sai, allora tutti con la moto, perché era proprio il momento, l'epoca. gli amici che uscivo sempre, ma io non è che mi dicevo con nessuno, ci mancherebbe altro, ma lo facevo capire chiaramente che c'era qualche elemento che a me non andava, e allora mi allontanavo per quello, ma non per questo ero arrabbiato con nessuno di loro, nella maniera più assoluta. Ogia, io ero così, io ho sempre avuto quel tipo di carattere, ho sempre sorvolato, ho sempre lasciato vivere, e ho vissuto e ho lasciato vivere, sempre. Sì, anche io, guarda, andavo in moto tutti i greci, andavo a una placca nuova, e se c'era qualcuno che non c'era benzina, lo spingevamo col piede, ci vado in varie assassi, perché molti venivano alla riserva fissa, pur di venire, venivano alla riserva fissa, pur non ce la faceva, la moto si spegneva, e allora lo spingevamo col piede, fino a Sassari, e facevamo cavolate. Se sapessi quanto ne abbiamo combinato. E mi ricordo, adesso mi è venuto in mente, una volta rientrando da Proaghi, eravamo in una sala a Proaghi, eravamo andati in Grefa a ballare, eravamo quattro moto ed eravamo otto persone, perché eravamo due persone su una moto, su ogni moto, no? E per cui siamo arrivati all'inizio di Scala di Ciocca, lì capita, uno gli si spegne il motore, uno che aveva la lambretta, gli si spegne il motore, e cosa era successo? Non partiva più questa moto, sai, al buio anche, non è che potevi fare più di tanto, perché era tardi, era oltre la mezzanotte. E allora io rimorchiamo, abbiamo tolto la cintola tutti quanti, e facevamo a turno, il passeggero lo prendeva e tirava la moto che era legata con la cintola, perché era anche molto ravvicinate tra l'altro, tra moto e moto, col rischio di cadere. Alla fine siamo arrivati a Terra Secca, siamo arrivati lì, c'era il tabacchino lì, il bar tabacchino, ci fermiamo lì, c'era un po' di luce, e questo deficiente di quest'amico mio non si era reso conto che gli si era staccata il cappuccetto della candela, era per quello che non partiva la moto, e noi abbiamo spezzato tutte le cintole nella salita di Scala di Ciocca, perché a turno si spezzava la cintola, allora prendevamo l'altra. Sì, allucinante. Ma si sente quando tu vai a mettere in moto, quando non c'è il cappuccio, fa un rumore strano, come quando si fa per avere, se arriva la corrente, c'è la presenza. Infatti si sente, ma quando lì aveva mezzo bevuto era il giorno, capito? Per cui era forse per quello che non era riuscito a capire niente. E allora ognuno di noi si è armato, si è tolto la cintola, e a turno facevamo, e quando è seduto dietro si cominciava, voglio il braccio mio, mamma mia, voglio il braccio mio, facevo un po' di strada, aspetta che non me lo posso più. E allora a turno passava l'altro con l'altra moto e con l'altra cintola già. Secondo me mi ha creato la cordonone della sassa di mia moglie in macchina, perché avevo messo l'allarme nella moto, e questo disgraziato si era dimenticato di attaccare un filo, toccava la carrozzeria e me l'ha fatta spegnere, capito? L'ha attaccato male, sicuramente si è staccato il filo, toccava la carrozzeria e non mi faceva mettere in moto la moto, e sono rimasto a metà strada al buio con la moto, e mi ha tirato con la panna, aveva tirato da solo sull'immigrato, dove c'era la salva legname, lì si va a arrivare a Sassa. Sì, ci credo. E sempre quello, io avevo trainato, con la lambretta mia avevo trainato una 600 nella salita di Molaffa, si può immaginare, con il rischio di sfacciare la moto, di sfacciare tutto. Una 600 avevo trainato, Gianni, quelle 600 di una volta, quelle addirittura con lo sportello che apriva davanti, no? Quando le donne si scendevano gli si vedevano le mutande. Sì, contro un vento ce l'aveva il sportello, io me lo ricordo, sì, ce l'aveva un amico mio, il padre, e la mamma per andare in giro, e andavamo in giro, c'erano i pannelli rossi, me lo ricordo ancora, i sedili rossi, e scaldava il motore come un coso. cose, dovevo stare sempre controllando se c'aveva acqua, chi li buliaeva. Già lo credo. Sì, perché scaldavano molto, infatti si apriva il cofano dietro proprio per cercare di arieggiare un po', capito? Con la lambretta, in prima, piano piano, ma sono riuscito a portarla su, in tutta la salita devo la fare, puoi immaginare. E poi tra l'altro ci sono anche le curve lì, e insomma è un pochino, però ce la faceva, la lambretta aveva una forza micidiale, la salita era micidiale, aveva veramente una gran bella forza. Sì, la lambretta allora la forza, sì, lo guardavo per caricare, figurati se ne aveva di forza, non correva molto, però la forza ce l'aveva. E infatti non era molto veloce, però come cavalli sembra che ce ne fossero tanti, e poi la mia era abbastanza di cilindrata buona, per cui aveva una gran bella forza, veramente. Vabbè, non era una cosa da fare, la verità, perché una moto che traina una 600 e non era tanto prudente, però in quel periodo allora diciamo che c'erano pochi controlli anche di per quanto riguarda la polizia stradale, eccetera, per cui non, tanto è vero, mi ricordo, allora io in quel periodo facevo anche l'elettricista e lavoravo con Pino Mucu, e alla fine da Pino Mucu c'era un radiotecnico, un certo signor Brusa, che era di Usini, quest'uomo, e tutte le sere l'accompagnavo io e l'uomo, l'autista di Pino Mura, quello che c'era a Santa Maria una volta, l'accompagnavamo a Usini, le davamo un passaggio, no, con la macchina del principale. E beh, quest'uomo, l'autista, al ritorno faceva guidare a me, si può immaginare, io senza patente, senza niente, e poi era ancora giovane, non ce l'avevo nemmeno l'età per prendere la patente, si può immaginare, allora la patente si prendeva a 21 anni. Ma lo potevi fare, perché non c'erano controlli in quel periodo, c'era poco controllo della polizia stradale, la volta, sai, al ritorno faceva guidare, quasi sempre a me faceva guidare, o già. Se ti trovano trainando, guai, ti mettono molto esorbitato, devi chiamare sempre il caratrice, non puoi più trainare. Oggi come oggi, no? Oggi, anzi, nemmeno con la macchina puoi trainare, oggi nemmeno quello so che è concesso, devi chiamare il caratrice e basta, perché diventa pericoloso. E tutto sommato è vero che diventa pericoloso, e non si può mai dire, che capita, uno non si vede, è passo tra le due macchine, capita, non ti accorgi della catena o della corda, ti puoi immaginare che è andata lì di macello, che succede? Qui ci sei morto, si aggancia al tavolo lui. Vabbè, ma prima uno si arrangiava, adesso non lo può più fare perché ci sono leggi su leggi. Addirittura stavano parlando, non si può fare manco più il pane in casa, sono andati i vigili da Costa d'Italia che fa il pane e gli hanno proibito di fare il pane in casa, capito? Non si può più fare. Anche quello, e vabbè, c'è sempre qualcuno che se lo fa. Io ho un amico che se lo fa sempre, molto ma molto spesso, infatti mi manda anche il video, mi manda per farmi vedere il pane che si sta facendo, e fa bene, ma quello sì, quando uno si prende un po' di farina, se l'hai fatta e si fa il pane in casa, se lo sai fare, hai il forno e se lo cucini e se lo mangi, non è che lo stai facendo per venderlo, no? Ma per dire, no? Ma voi già, sono le 8 o meno 5, è arrivato il momento della terapia per me già, alle 8 devo, dunque mi devo preparare tutto, e dunque dovrò purtroppo a malincuore lasciarti già, mi piacerebbe continuare, ma purtroppo non posso, dai, perché puntualmente tutti i santissimi giorni, mattina e sera, devo fare questa terapia per tutta la vita. Ci sentiamo già, grazie del QSO, e scusa se ti abbandono in questo momento così, ok? Grazie ancora per il QSO, ciao Gianni, già ascolto fino a richiudo. Non c'è problemi, intanto mi ricordavo a chiamarmi facendo di giù, quindi immagina, ci vuoi andare via anch'io. Beh, saluto anche a Torino, se l'ascolto, grazie per il QSO, buona serata, buona continuazione, dai, ci sentiamo, buona carica qua la fai. Ok, ciao Gianni, di nuovo buona carica a te. Ciao Tonino, se sei ancora all'ascolto, buona notte. la carica anche a te. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, chiudo.